Vedi, cara, è difficile spiegare il come, il perché, il quando di questa defiance. E non dirmi quelle cose tipo capita, è normale, levando gli occhi al cielo come un bonzo in trance. E risparmiami, ti prego, il tuo Freud a 1000 lire. Il subconscio, superio, l'es, la negazione, sai, una sega te. Il mio trauma giovanile è aver avuto sempre troppa immaginazione. Per molti, vedi, tempo è una sequenza di minuti. Ore, giorni, mesi, anni, il tempo delle mele, quello dei saluti, l'ora del lupo e quella della verità. Invece, per me, la vita è tutta in un istante. L'attimo sublime tra idea e azione, una sincronia senza posto ante. Ma tornando invece alla mia disfunzione, chi ama il pre, chi il coito, chi le coccole, brucia l'uno e assapora gli altri senza fretta. Che c'è dunque di così bislacco se a volte, mentre tu ti svesti, io sono già alla sigaretta? Dice uno, la fatica è tanta, la soddisfazione è poca e la posizione è ridicola. E lascia stare il Kama Sutra, lascia stare il Tantra, che son cose buone sì per una scimmia arboricola. E diciamo addio alla prigione dei parametri, allo spazio-tempo, all'effetto retard, che non è in minuti, decibel o centimetri, che si misura la mia o la tua felicità.